se ti scegli un orizzonte che è solo il tuo, verso quale puntare, la felicità è dietro l'angolo, la incontri da subito, non occorre arrivare là in fondo. Sono felice di annunciare che ho firmato il mio nuovo accordo con il Sydney Football Club. Vedere se obiettivo Formula 1 è raggiungibile o no, in prospettiva magari 2014, ma quello non, sinceramente non ci penso e non riesco a rispondere. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, Franco Biertaneda in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ieri sera, lo confesso, mi sono addormentato guardando la nazionale e poi, quando ho riaperto gli occhi, ho scoperto che una stranissima coppia aveva quantomeno salvato la faccia dell'Italia. C'è stato quelle due occasioni a Sofia che purtroppo non sono riuscito a far gol, quindi ero molto dispiaciuto, anche perché con un mio probabile gol potevamo portare a casa una vittoria importante. Purtroppo non sono arrivati lì, è arrivato oggi, quindi sono molto contento. No, io credo che comunque giocare contro una squadra come quella di oggi, che era tutta chiusa dietro e compatta, che si difendeva bene, è difficile penetrare ed è difficile comunque trovare quelle soluzioni che con un altro tipo di squadra puoi trovare. È stato il mio esordio, ero abbastanza emozionato, però poi i ragazzi, da Andrea a tutti i veterani, mi hanno messo subito a proprio agio. Comunque è un'emozione grandissima e penso sia una partita che ricorderò per tutta la vita. Non sono naturalmente Jack Lemmon e Walter Matthau, come questa base ricorda, ma sono Destro e Peluso. Io lo confesso, mi sono addormentato, e non solo perché tutti convocati. A proposito, 800240024 è il vostro numero verde, mi toglie un sacco di energie. Lo spettacolo in realtà non meritava molti minuti di sonno. E poi oggi mi faccio raccontare dall'inviato del giornale Franco Ordine gli ultimi minuti della partita. Ciao Franco, grazie. Eccomi qua, io guarda, correvo lo stesso rischio tuo, solo siccome ero sistemato in una tribuna stampa un po' scomoda, questo mi ha impedito di sonnecchiare e quindi sono dovuto rimanere desto e non destro fino all'ultimo. Dovuto rimanere destro fino all'ultimo. Dopo l'operazione simpatia, mi pare che questa nazionale, non parlo di operazione antipatia perché non è così, però è senz'altro una nazionale molto banale e confusa. A settembre sì, no, può essere normale, ma nessuno si azzardi a dire che va bene così. No, non soltanto nessuno si azzardi a dirlo, ma soprattutto che qualcuno intervenga, perché voglio dire, adesso derubrichiamo tutto sotto il capitolo il settembre nero della nazionale, però io non credo che si possa continuare così, ma soprattutto penso che sia stato un po' smarrito, dilapidato, oserei dire, il patrimonio di fiducia, di entusiasmo, di ottimismo che invece l'europeo polacco ci aveva regalato. E quindi questo è compito esclusivo del CT della nazionale, che deve da questo punto di vista trovare qualche rimedio. Anche perché ieri sera, per esempio, mi è sembrato palese un piccolo dettaglio di natura calcistica, e cioè appena Ghedin, che è tra l'altro un degno allievo di Trapattoni e di Cesarone Maldini, ha messo alle costole di Pirlo un suo giocatore facendolo dedicare solo ed esclusivamente alla sua marcatura, l'Italia ha perso la sua fonte di gioco, con naturalmente conseguenze brillanti per il resto delle giocate della nazionale. Certo. Senti, cosa sta sbagliando Prandelli a parer tuo? Ma più che sbagliando, secondo me, io onestamente non gli accredito errori clamorosi di scelte, perché in questo momento non ha Balotelli, Cassano è peggio ancora degli altri. Secondo me quello che non ha ancora recuperato è la password per entrare dentro il cuore dei suoi e soprattutto per farli rendere così come avevano fatto nelle prime partite dell'europeo, cioè manca un po' lo spirito oltre che la condizione fisica. Sì, anche se è vero che a settembre i giocatori pensano ai fatti loro più che alla nazionale, ma allora questo è dichiarato. Se penso sono ai fatti loro che stiano a casa loro, dove magari possono pensare anche con maggiore concentrazione. Senti Franco, mi piacerebbe che qualcuno si alzasse e facesse pubbliche scuse a Mimmo Criscito. Non so se Prandelli, non so se Abete, non so se... Beh, non è che c'è molta scelta. Però devo dire che le scuse secondo me dovrebbero arrivare dalla Procura della Repubblica di Cremona, amici miei carissimi, perché non si possono fare i blitz alle 6 del mattino dentro Coverciano e poi dire che la situazione, far pubblicare le foto degli incontri a fuori dal ristorante e poi dire che non è successo nulla, ci siamo sbagliati, non ci sono reati da perseguire. È evidente che in quella circostanza la federazione ha applicato un criterio, doveva sceglierne uno e ha detto chi è indagato resta a casa, chi non lo è nel caso Bonucci parte con noi. Insomma, io penso che siano altri quelli deputati a fare una riflessione sulle vicende ultime legate all'inchiesta sul derby di Genova. Sì, sì, io noto sempre più sommarietà in ogni tipo di processo, anche in questo che si è svolto all'interno del Club Italia comunque. Esattamente, sì, ma su questo sono perfettamente d'accordo. Ti chiedo un'ultima cosa, la vicenda di Conte a Bari invece come la vedi? La vicenda di Conte a Bari devo dire che la vedo invece, io che sono sempre molto polemico con i magistrati, con grande interesse, perché ho visto che per esempio Laudati si muove in maniera molto diversa. Laudati è il procuratore capo della Repubblica di Bari, per esempio ha convocato forse la città di Bari Conte, lo ha interrogato e la cosa non si è saputa, si è venuta fuori dopo qualche giorno, la stessa cosa ha fatto con altri esponenti diciamo delle vicende relative al calcio scommesse. Adesso bisognerebbe capire, è stato sentito come persona al corrente dei fatti e non come indagato, bisognerebbe capire nelle 4 ore di colloquio e di relativo verbale che cosa si sono detti e soprattutto quali sono state le circostanze su cui è intervenuto Conte. Io vorrei parlarne e capirne di più dopo aver letto almeno il verbale. Certo, grazie saluti. Franco. Saluti, grazie Franco Ordine. 800240024 per essere convocati oggi pomeriggio a parlare di calcio, ma non solo, di sport in generale. Poi parleremo anche di primo giorno di scuola con una maestra specialissima. Messaggio SMS 349-238-6666. Abbiamo il tempo, ho il tempo di farvi ascoltare invece una voce ancora che è arrivata ieri dalla Nazionale. Diamanti, che è salito sul banco degli imputati, manco avesse fatto qualcosa di grave. Non ha giocato un buon primo tempo Diamanti, ma è stato, secondo me, ingiustamente messo in croce giocando in un ruolo non suo. Cosa vogliamo chiedere a Diamanti? No, non sono soddisfatto, però ti ripeto, era molto difficile per me perché poi ho avuto un paio di spunti, ma mi facevano fallo sistematicamente, quindi era difficile, loro erano tutti dietro e trovare spazi, ripeto, secondo me era difficile. Salviamo il soldato Diamanti. Sì, non c'ho bisogno di essere salvato, sono partito da tanta di quella merda, quindi no. Per una partita nazionale. E Diamanti a me è sempre stato molto simpatico, oltre ad essere ragazzo bizzarro ed essere un eccellente giocatore di pallone. La vostra chiave per la convocazione è l'800240024, numero verde. Intanto noto che Balotelli non è stato convocato da Prandelli, operato agli occhi poveretto, ma è stato convocato da una misteriosa bionda a un party milanese. Bah! Amerigo, Genova, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Volevo riprendere un po' il discorso Farina-Criscito. Sì. Nel senso che... A proposito, le dico una cosa, una notizia di una dichiarazione di oggi su Farina, è del presidente del Gubbio Marco Fioriti, che dice: lui è venuto da me dicendomi io voglio smettere di giocare a calcio e quindi risolvere il contratto. Questa è stata la richiesta di Farina, si parlava di Inghilterra e di altre opportunità, è stato soltanto lui a decidere di risolvere in maniera molto tranquilla il contratto e di prendere altre strade. Questo ha detto il presidente del Gubbio. Non si può che prendere atto, può anche essere da pensare le pressioni che questo ragazzo ha avuto negli ultimi mesi. Cioè, io credo che uno che gioca a calcio gioca a un livello alto ma mediocre, quindi sicuramente non si è messo da parte dei quattrini da dire sto tranquillo da qui a chissà quando. probabilmente si è trovato tanta terra bruciata intorno. E a questo aggiungo un Criscito. Io sono anche genuano, quindi voglio dire, conosco bene, a parte la cialtroneria di frequentare gente infrequentabile, sì. E questo è comunque un errore, ma mi sembra di capire che nel mondo del calcio sia abbastanza un'abitudine. Eh sì, per anche perché gente frequentabilissima ce n'è poca, caro Amerigo. E quindi a quel punto, forse essendo in Russia, era più facile far fuori lui e dare un segnale di rigorosità che di fatto non esiste. Ma non so, perché non so se c'entra il fatto che giocasse in Russia. Io ripeto, a me piacerebbe sentire delle scuse a Criscito, che ha perso inutilmente un campionato europeo che poteva giocare e che non si ripresenterà tante volte nella sua carriera. Tra l'altro lui è stato molto morbido, ho letto anche interviste di oggi nei confronti di quella vicenda. È diventato il capro espiatorio di una situazione, di una pattumiera che si stava rovesciando sulla nazionale. Evidentemente non ci si è voluti sporcare le mani e la faccia, e è stato sporcata quella di Criscito, che poi ieri è stato detto, vabbè, questa storia qui del derby adulterato del maggio 2011 non sta in piedi, scusate. Festa finita, e quindi adesso Criscito a dire, e adesso a me chi mi ridà l'europeo? Nessuno, naturalmente. Non so neanche se con questa vicenda riuscirà a ritrovare con serenità la maglia della nazionale, questa è la mia impressione. Cristian Ferrara. Sì, buonasera, io volevo intervenire parlando della prestazione di Diamanti di ieri sera in nazionale, e inizio dicendo che condivido quanto lei ha appena detto sul giocatore. In quanto per me Diamanti in questo momento rappresenta uno dei migliori centrocampisti italiani, e dico centrocampista perché Diamanti non è un trequartista puro. Io tra l'altro sono tifoso del Bologna e lo seguo tutte le domeniche. Diamanti è il tipico centrocampista moderno, abbina qualità e quantità. Quindi secondo me la nazionale di Prandelli in questo momento ha bisogno di questo tipo di giocatore, che tra l'altro nel campionato italiano non è che ne abbondiamo così tanti. E poi ieri sera è chiaro che lui non ha giocato una buona partita, ma come credo tanti suoi compagni. Come tutti gli altri, anche perché io ho notato che quando Prandelli l'ha richiamato e gli ha detto di posizionarsi dietro le due punte e praticamente fare il trequartista puro, lui è scomparso dal gioco. Diamanti è un giocatore che ha bisogno di andare a ricevere il pallone nello spazio che lui crede più opportuno occupare, e dopodiché puntare l'uno contro uno o lanciare di prima, come lui sa benissimo fare col suo sinistro. Quindi sì. Mi dispiacerebbe molto se Prandelli, dopo la non buona prestazione di ieri sera, non lo mettesse da parte. Ecco. Ma non, io non credo, anche perché sarei portato agli europei. Tra l'altro agli europei ha fatto anche alcune cose importanti, quindi non credo sia una bocciatura definitiva. Sarebbe stupido bocciarlo definitivamente dopo un brutto primo tempo come quello di tutti quanti ieri sera contro Malta. 800 24 00 24, numero verde. Intanto io vi faccio sentire anche l'allenatore maltese, che però è italiano, si chiama Pietro Ghedin. Come ci raccontava prima Franco Ordine, ha avuto la trovata non certo inedita di mettere un giocatore a uomo su Andrea Pirlo, e se l'è cavata con una dignitosissima figura. Soddisfatto lo stesso, è stata una buona prestazione da parte nostra. L'Italia, lo sappiamo, è super, quindi più di tanto non si poteva fare. Comunque lode e merito anche la nostra squadra, che è riuscita a fermare anche in maniera molto corretta gli avversari, quindi va benissimo così. L'Italia normalmente è una superpotenza, quindi non si può nascondere, ma al di là, certo, tutti ci aspettiamo di più, no? Dall'Italia, ma a questo punto devo dire che forse è ancora in rodaggio, e noi pure, ma al di là di questo l'Italia va sempre, è un prestigio assoluto, quindi anche i miei ragazzi credo che un po' di suggestione psicologica ce l'avevano. E questo era Pietro Ghedin. Per chiudere la carrellata, il nostro CT Cesare Prandelli. Quando parti un po' sotto ritmo è perché pensi che puoi con la tua tecnica arrivare alla conclusione, invece trovi una squadra molto organizzata, una squadra che ha mantenuto in equilibrio per tutta la partita, una squadra che non a caso si allena tutte le settimane assieme, quindi una squadra vera. Certo, il calcio è cambiato, però però in questo periodo c'è sempre una flessione, perché arrivi da carichi di lavoro massimali, tutte le squadre in ritiro hanno lavorato tantissimo, sapendo che ci sono la sosta della nazionale, ovviamente lavorano proprio per ritrovarli fra una settimana pronti, è ovvio. Quindi è cambiato il calcio, ma il problema delle nazionali ci sono sempre. Come si diceva prima, tra le righe Prandelli dice: ognuno viene qui e non è che si impegna più di tanto, forse perché non ne ha, forse perché pensa ai cavoli suoi. Attilio, provincia di Bologna. Sì, pronto. Pronto, eccoci qui. Allora, io volevo fare un punto sulla faccenda delle Olimpiadi con Nibali, quello che è successo alle Olimpiadi. Sì. Ha vinto un signore che aveva dichiarato che lui voleva vincere una grande corsa. Allora mi domando, avendo una fuga di 30 corridori, sì, uno non è che si stanca molto. Quando è partito Vinocoro, che è andato all'arrivo, il signor Nibali non ci ha neanche pensato ad andarci dietro per eventualmente andare con lui all'arrivo. Anzi, addirittura ha perso un minuto andare all'arrivo. Sì. Dunque, allora io mi chiedo... Contestualizziamo, gara olimpica di Londra, siamo ritornati su quella fuga di Vinokurov cui Nibali, che sarà tra l'altro il nostro capitano ai mondiali di Falkenburg, non ha risposto. Sì. Sì. Dunque, si chiede che allora, cosa? Vorrei dire, ma come può Bettini fidarsi di un corridore... di un corridore che vede un suo futuro capitano che va in fuga e non lo va a prendere e poteva vincere anche la medaglia d'oro? Lo chiederemo a Bettini perché una risposta non ce l'ho. Io credo che Nibali in questo momento sia la punta migliore che possiamo presentare ai mondiali di Falkenburg e quindi al di là del futuro capitano e della malizia che lei mette dietro a questa affermazione, una risposta io non gliela so dare, perché ripeto, bisogna chiederla al CT. È stato oggi, voglio parlare del primo giorno di scuola per tanti bambini e non. Poi gli Appennini sono il mare, l'oceano indiano e il mare dei sarcassi. Il mare dei sarcassi che bagna Bari. Il mare dei sarcassi che bagna Bari, cuna dell'arte, patria di Giotto e patria di Napoleone. A mappe dei quattro sei ignoranti. Meglio, mesca. Ercole Pappalardo. Presente. Ed era questo Totò che tornava a scuola. Invece noi, per parlare del primo giorno di scuola, abbiamo una prof speciale. Maria Clara, professoressa di Alex Del Piero. Sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono da Padova e sono in pensione, premetto. Comunque io ho nostalgia, cioè io sono abbastanza tranquilla su Prandelli. Sì. E mi fa anche tenerezza Peluso, che dice: ho visto la palla entrare, non ho capito più nulla, e me la porterò per tutta la vita. Ecco, io ricordo che Alessandro, le dicevo, era un ragazzo normale alle superiori, perché aveva il papà che diceva: prof, io cerco che abbia un diploma, almeno, perché se non riesce nel calcio, perché era col calcio Padova che, sì, l'avevano raccolto questi ragazzi che facevano un tipo di club, ma di scuola seria a livello di calcio, poi di scuola un po' meno, perché ma faceva quello che fanno i quindicenni, i quattordicenni. Certo. Io poi l'ho visto crescere con molta tenerezza, perché la serietà di suo papà l'ha dimostrata per tutta la vita. A me dispiace che la famiglia Agnelli non abbia capito un tubo, sì, e abbia lasciato andare via un calciatore che non è stato mai nella melma, mai è stato signore come erano i nostri tempi, e che non si era ricchi ma si aveva una dignità. Adesso si vede la dignità per i soldi, e nel calcio siamo immersi fino al collo. Sì. Io non celebrerei tanto contro Malta, perché insomma ricordiamoci la Bulgaria. Senta, siamo modesti, io invece vi ringrazio perché siete molto sereni, ci aiutate a fare i confronti, e anche una Rai 24 che informa. Io l'abbino a Rai News 24, sì, della Rai, sì, perché insomma ci sono persone, vi teniamo informati, proviamo a tenervi informati, prof. Senta, certo, ma ieri suo bambino ha fatto... Credo che Del Piero ha dimostrato di non vendersi né alla Francia né né all'Inghilterra, ma di andare fuori in maniera di non avere mai di combattere contro. Io ho visto gente giovane e meno giovane, io ho il mio pronipote che oggi fa 23 anni a Manchester per fare il quinto anno di università all'Erasmus, che era un tifoso di Del Piero da sempre, e penso che tanta gente abbia sofferto di veder perdere, perché perdiamo i migliori proprio. Ma anche per questioni anagrafiche, prof, Del Piero è comunque un giocatore all'ultima stagione della sua carriera. Ma cosa ne pensa, per chiudere, di questa decisione di andare in Australia? Io l'ho trovata molto Del Pieriana. Che abbia voluto, cioè, lei se lo vede che andasse a lottare contro la Juventus. Io credo che anche quella decisione, poi ha fatto un taglio netto, penso che ci sia anche la famiglia, tre figli, quindi a un certo momento mi dispiace, però vorrei ricordare al Veneto che ci sono persone così, le abbiamo nella ricerca, le abbiamo in tutti i campi e abbiamo anche degli ottimi giornalisti liberi che informano realmente. Io credo che quando uno ha l'etica, sia nel calcio sia nella vita, lo dimostra. Grazie, auguri ai ragazzi della scuola, perché che se ne dica, la scuola è sempre qualcosa che ti mette insieme con gli altri e ti fa crescere. Ah, certamente. Grazie. Oggi poi è cominciata con tutti i limiti dei genitori e degli insegnanti, perché la scuola è vita e ci siamo tutti dentro. Ci siamo dentro tutti e ci siamo passati tutti, anche Alex Del Piero dalle sue cure, e poi ieri in cattedra alla Sorbona l'avrà fatta felice, insomma. Sì, è veramente, anche perché guardi, era timido come tutti, con una cultura di un 14enne, e l'ho visto crescere proprio con dignità anche nell'espressione, nel lessico, ma penso che sia dovuto proprio, non è mai entrato nei gossip, non ha mai respinto il fango con signorilità. Grazie. Io questo lo credo un gol della vita. Grazie professoressa Maria Clara, grazie davvero. Ogni tanto la disturberemo ancora. E c'è qualcuno povero di spirito che scrive: con la prof di Del Piero abbiamo toccato il fondo, vai a Zurich. Io a Zurich ci andrei, porterei anche voi. Voi vorreste andare invece magari in procura o a frugare nelle scommesse, eccetera, ma lì non vi ci porto. Vi porto invece, per chiudere il discorso Del Piero, alla Sorbona di Parigi. Sentiamo cosa ha detto. Lo sport e la cultura possono insieme stabilire grandi contatti e cambiare molte cose. Provo con orgoglio di esprimere quello che è il mio ruolo in questo progetto. La motivazione reale della mia presenza si chiama appunto Save the Dream, un progetto che si propone di preservare un sogno che si chiama sport. Questo programma di sensibilizzazione a livello mondiale ha l'obiettivo di contribuire alla diffusione dei valori che proteggano l'integrità dello sport, affinché non deluda chi crede nella sua purezza. Capirete dunque perché essere qui a farmi promotore di questa iniziativa sia per me motivo di grande orgoglio e di grande onore, per chi come me ha dedicato la sua vita allo sport. Così Del Piero ieri alla Sorbona. Daniele da Venezia ci dà un'idea: domani chi convoca la catechista di Inzaghi? Può essere, no, non lo escluderei. Intanto però, visto che siamo in argomento, vi faccio sentire anche, prima di tornare a parlare con tutti gli ascoltatori che ci sono, tantissimi come sempre, 800 24 00 24, tutti convocati qui, vi faccio sentire anche l'ex allenatore di Del Piero, Antonio Conte. È venuto il momento, lui o no? Che Antonio Conte dica la mia, di questa cosa assurda che mi è capitata, di questa giustizia sportiva, che credetemi, lor signori, è agghiacciante questa cosa assurda che mi è capitata, quello del lor signori della giustizia sportiva. È agghiacciante, è assurdo, è una cosa che non la trovi nemmeno nei romanzi di Dix. È agghiacciante quello che dicono. Devo patteggiare? Questa giustizia patteggia. Non gli vuoi dire del nome? Ah, allora patteggiamo. I miei avvocati patteggiamo, non si sa mai. Patteggiamo. Io ho un ricatto bello e buono. Io ho paura. Ah. Devo patteggiare su tutto? sono andato a comprarmi un paio di scarpe, io ho il 43 di piede, dice ho il 38, dico va bene allora niente, grazie, e mi ha avvocato, aspetta, non te ne andare, patteggiamo a 43, c'ho il 38, ho preso il 40, c'ho i piedi dentro una cosa con le salamelle per le scarpe, e agghiacciate quello che dicono, e agghiacciate questa giustizia sportiva, è assurdo quello che è capitato, vergogna. Ma è lui o sono no? Sono antipatico perché vinco, eh? Chapeau. È lui o non è lui? Non è lui, naturalmente. È Crozza nella sua imitazione. Devo ammettere che ne ho sentiti di migliori nel limitare Antonio Conte, però Crozza mi fa sempre morire dal ridere. Carlo da Perugia, provincia di Perugia, poi Giovanni da Milano, Paolo da Bergamo, 800 24 00 24. Vogliamo sentire parlare di sport e argomenti seri, non di gossip. E invece noi parliamo di calcio, argomenti seri, gossip, e non solo calcio, anche tutto il resto. Ora, qui, in Tutti Convocati, Carlo. Salve, volevo il suo parere tecnico da giornalista sportivo. Ieri sera, guardando la nazionale, sentivo il telecronista che diceva, quando Pazzini ha colpito di testa a un certo punto, dice Pazzini è il miglior colpitore di testa che c'è nel mondo, no? Questa era la frase che ho sentito. Poi sì. Chiellini il miglior centrale del mondo, Pirlo il miglior regista del mondo, e Buffon il miglior portiere del mondo. Io sento sempre questi commenti, perché poi però ne prendiamo 4 dalla Spagna, che se non si fermano ne fanno anche 8, 2 dalla Bulgaria, portiere di Malta ieri sera mi sembra che non è mai stato impegnato, quindi c'è qualcosa che non mi torna, volevo un suo parere. C'è qualcosa che non le torna nelle parole dei dei commentatori, no? Più sì, che, poi anche nei fatti, perché poi credo che no, non sia così. Credo che non sia credo che come lei che non sia proprio così, cioè che Pazzini non sia il miglior colpitore di testa del mondo, Buffon è uno dei più bravi, questo è indiscutibile, sì, lo stesso discorso vale per Pirlo. Possiamo anche fermarci lì, no? Possiamo anche fermarci lì. Io capisco provare a vendere bene un certo prodotto, però bisogna anche avere un minimo di senso della misura. Quindi, telecronaca può sfuggire qualche sciocchezza. Una raffica è un po' complesso. Giovanni, Milano. Dottor Genta, buon dì. Volevo solamente cercare di capire come i pubblici ministeri a mesi di distanza possano chiedere scusa ai tifosi o a certi giocatori che potevano andare in nazionale, come Mimmo Criscito ad esempio, accusato di chissà che cosa per un derby, venduto o non venduto, solo loro sanno come e perché, però questo povero ragazzo si è trovato a distanza di mesi, escluso per motivi tecnici o scelta etica da una nazionale. Per ma lei ha trovato giusta questa esclusione? Io no, francamente no, devo essere sincero, frequento l'ambiente di Genova, del Genua da anni. Quindi dico i magistrati, mi perdoni Giovanni, quando, i magistrati... Quando cantavamo Boselli non lo sapeva, sì. Perché una curva intera lo cantava più o meno in quel derby, perché era per noi un'occasione d'oro per mandare i cuginetti in Serie B, che non capiterà mai più, però eravamo sicuri che qualcosa ci fosse, ma che non fosse conclamato, nel senso quelle cose che sanno nell'ambiente, piccolo ambiente, ma non vengono fuori. Però se non hanno delle certezze non possono a mesi precedenti dire il derby di Genova verrà fuori come un'esplosione, tutto il calcio capirà cosa sarà, tutto sì. E poi adesso a però settembre in lei un sospetto che... c'era, no? Mi sta dicendo questo? Genova aveva un sospetto, ma era più una paura che un sospetto, nel senso sì. Quindi qualcosa... per noi era un'occasione d'oro. La paura, il sospetto, l'occasione d'oro, quello che vuole. Insomma, i magistrati hanno svolto. Sì, ma io capisco. I magistrati hanno svolto le loro indagini alla fine. Perché nel processo normale, come in tutti i processi civili, perché quello sportivo non lo è con le sue distorsioni, vige il principio di non colpevolezza, quindi l'onere della prova sta a carico di chi accusa, il contrario di quanto accade nel processo sportivo. Ebbene, i magistrati, insomma, hanno avuto bisogno del tempo che serviva per svolgere le loro indagini. Ieri un GIP ha detto che non ci sono prove di torte, e dunque la storia finisce qui. La storia finisce qui, ma è finita per Crescito molto tempo fa, quando era al ritiro di Coverciano. Anch'io sono d'accordo sul fatto che quel blitz smodato e così evidente, così pubblicizzato, sia stato forse l'elemento determinante di una esclusione comunque ingiusta, perché ho la sensazione che sia stata una decisione abbastanza piratesca quella di mandare via Crescito dal raduno della nazionale. Paolo Bergamo. Buongiorno, io volevo parlare un attimo di Allegri e Galliani, perché sento questa continua, leggo di questa continua diatriba. Io sono milanista e ho l'impressione che questo allenatore forse non abbia il famoso physique du rôle che era stato detto, non so se da Galliani o da Berlusconi, e vi spiego perché. La gestione dello spogliatoio, vedendo tutti come si è comportato, insomma, con Gattuso, Inzaghi, un certo malumore, e la gestione tecnica, perché secondo me l'anno scorso Milan, lo scudetto indipendentemente dal merito della Juve, avrebbe dovuto vincerlo. C'è stato il momento decisivo, la gestione di Pato, l'utilizzo di Thiago Silva in quella partita di Paolo, indubbiamente Allegri ha commesso i suoi errori. Allegri ha comunque avuto l'intelligenza di gestire il gruppo come voleva lui. Io non dimentico il modo in cui fece fuori, tra virgolette, Ronaldinho, che era onestamente un peso morto, che stava nella manica del presidente, con molta arguzia. Massimiliano Allegri è riuscito a liberarsi di Ronaldinho. Ora, che quello spogliatoio a fine stagione non fosse dei migliori è indiscutibile. Che Allegri si sia preso delle discrete responsabilità è altrettanto indubbio. Non credo che quest'anno il Milan sia competitivo per vincere lo scudetto. L'anno precedente lo ha vinto quando non era la principale favorita, perché, se vi ricordate bene, la principale favorita sembrava essere l'Inter. Dunque, uno scudetto vinto, uno scudetto perduto, Allegri in discussione, e io continuo ad avere il sospetto che Allegri non resterà a lunghissimo sulla panchina del Milan. Chissà se mi sbaglio. C'è Luca su Twitter che scrive: quando la finzione supera la realtà, Crozza che imita Conte, da sentire e risentire. No, una volta basta, se volete lo sentite da un'altra parte. Io non riesco a resistere alla tentazione di convocare, oltre che voi, tutti i giorni all'800 24 0024, almeno una volta alla settimana, dalla Spagna, il mio amico Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Ho saputo, tra l'altro, che da poco lì in Spagna sei diventato un conduttore radiofonico di grido. No, conduttore no, sempre ospite. Io mi ospite. Chiamano solo per... Cosa ogni fai? Tanto, no, ma è la popolarità dell'europeo, dove era molto facile, per, sai che noi giornalisti siamo un po' pigri. E quindi alla fine abbiamo giocato due volte, la Spagna ha giocato due volte con l'Italia, in mezzo c'è stato il biscotto. Io ero sempre lì e alla fine, no, dice, insomma, è comodo, parla spagnolo, usiamo lui. Da lì la popolarità è cresciuta. Su Radio Ser, no, comunque, Filippo Maria Ricci, in onda dalle 11, no, a che ora è? No, mezzanotte, il prime time radiofonico qui è mezzanotte 1. La mezzanotte all'una e mezza sono i programmi, insomma, io insomma, tengo famiglia, quindi e poi solo una volta ogni tanto comunque. Filippo, anche Cristiano Ronaldo tiene una famiglia, anche se un po', strana, e leggo oggi che il Real Madrid sta tentando di far di tutto per far tornare il sorriso a sto ragazzo, e l'unica via sembra essere quella di dargli di aumentargli la mancia. È un bel ritocco al contrattone, che già è cospicuo. No, allora oggi, diciamo, le tappe, l'agenda prevede oggi il primo allenamento alle 5, ovviamente è tutto chiuso, quindi insomma ne sapremo poco, e domani, quindi l'incontro con Mourinho, e domani invece c'è l'incontro con anche col presidente, perché domani è il giorno della foto ufficiale del Real Madrid, e quindi la grande famiglia della Casa Blanca si ritroverà cercando armonia. E probabilmente parleranno anche, ovviamente lui si è subito affrettato a dire che non è una questione economica, ma in realtà di quello si tratta. E ti devo anche dire una cosa, io penso che lui abbia anche delle discrete ragioni a battere cassa, pensa che ti dico. Il problema è come lo fai, cioè non puoi non festeggiare nei due gol e poi uscire in zona mista e dire che sei triste. Vai dal presidente e gli dici: senti, io guadagno quanto, no, quel brasiliano che giocava tanto bene, che ha preso un pallone d'oro quando era al Milan. Adesso, dice lui, si accontenta di andare in panchina. Io ho segnato 150 gol in 149 partite, non mi sembra il caso che guadagniamo la stessa cifra. Magari l'ha fatto, gli hanno risposto picche, allora lui ha voluto rendere pubblica questa sua tristezza. E adesso vedrai che non rispondono più picche, ma denari, e secondo me gli danno quello che lui chiede. Il problema che chiede tanto è che c'è appunto questo salto nella tassazione brutale, perché adesso il Madrid sul contratto di Ronaldo paga il 24%, e su un eventuale nuovo contratto pagherà il 52%, per cui anche solo un minimo aumento diventa costosissimo, e poi lui non è che vuole un minimo aumento, qua Marca addirittura ha parlato di 15 milioni netti, adesso non so se si arriva a tanto, ma anche se arriva a 12 dai 9 o 10 attuali, perché non è chiarissimo quanto prende, per me sono 9, altri dicono 10, e anche se dovesse andare a 12... immediatamente si raddoppia, insomma, quindi è un'esposizione fortissima. Però ripeto, in un mondo come quello del calcio, dove ci stanno dei rinnovi, lui ha fatto il contratto 3 anni fa, le cose vanno bene, non è che, insomma, sappiamo com'è il calcio, non stupiamoci per questo, insomma, certo. Ecco. Anche il perché poi è come l'ha fatto, insomma, ecco, le modalità della le modalità sono discutibili indubbiamente, ma probabilmente c'è anche chi in giro gli ha promesso quei quattrini, no? Si leggeva dell'offerta del City. Quello, guarda, neanche io non lo vedo, non è tanto semplice, non è molto commercializzabile Ronaldo, perché allora l'hanno pagato, non è così facile andarlo a prendere adesso, voglio dire, sta giocando benissimo, cosa fai? Non è che ti presenti da Real Madrid a Florentino Perez, sì te lo prendo per 40, no, cioè voglio dire, 40 hanno pagato i russi hanno pagato Witzel, il difensore, no? 50 li hanno dati per Hulk, allora quanto lo devi pagare e poi quanto gli devi dare? Io non lo vedo in realtà, e poi soprattutto secondo me Ronaldo in realtà qua sta abbastanza bene, non sta benissimo perché lo spagnolo resta comunque un po' freddo di fronte a queste sue, no, pose teatrali, questo atteggiamento un po' così da sbruffone. Agli spagnoli non piace tanto, anche il Bernabeu non ha trovato, piace più Mourinho di Ronaldo, questo cioè, è indubbio, insomma, il boato all'annuncio delle formazioni arriva quando esce fuori il nome dell'allenatore, non al numero 7, però detto questo, io non lo vedo, sì, è chiaro che tu puoi sempre dire, ah sì, c'è un'offerta del City, dell'Anzi, però non lo so, il Real Madrid resta Real Madrid, non lo vedo Ronaldo alla sua età andare in Russia. No, assolutamente no, ma sono d'accordo sul fatto che è stata una manfrina, poi vai a giocare con Levian, no? Una manfrina mal giocata, mal recitata probabilmente, e che aveva un unico obiettivo che verrà puntualmente raggiunto. Ciao Filippo. Poi ci dici a quanto ammonta la mancia di Ronaldo, appena si sa. Allora, prima di Giancarlo da Roma, Luca da Varese, visto che stavamo parlando di un grande protagonista della Champions League, abbiamo questa rubrichetta numeri di Champions che sta per cominciare. I numeri della Champions. Pensarci prima, poteva anche essere un indovinello. Chi ha giocato il maggior numero di partite consecutive in Champions League? Non c'è più tempo per rispondere, non lo lascio in sospeso. È la Juventus, 42 consecutive dal 13 settembre 95 al 21 aprile 99, mentre il maggior numero di partecipazioni consecutive alla Coppa dei Campioni è di 15 ed è del Real Madrid. Questi i numeri di oggi. I numeri della Champions, in collaborazione con Unicredit. E dall'inno della Champions torniamo alle nostre basi un po' più sparate, un po' più rock. Giancarlo, Roma. Sì, pronto? Dica. Oh, gente, salve. Salve. Senta, bello, che mi sono tornato tantissimi. Però voglio parlare un po' di tennis. Ho sentito l'altra volta Tommasi. Sì. ti ricordi, mi parlava, ieri, mi diceva, questo mi è dispiaciuto molto, che parlava un po' male del doppio, no? Sì. Io capisco che uno che gioca a tennis gioca uno contro uno, poi il momento che viene fuori due contro due gli sembra un po' strana, no? Perché lui ha detto che quasi un ripiego il doppio. Mm. E non è così, perché il doppio è un gioco molto più intelligente del singolo, ci vuole intelligenza per farlo, ecco perché pochi lo sanno fare, lo giocano tutti, ma pochi lo sanno fare, perché ci vuole una certa quantità di intelligenza e capacità. Certamente, beh, ma sa, un purista come Rino Tommasi, insomma, gli conceda al maestro questa licenza poetica, a lui il doppio non gusta più di tanto, a lui il doppio non piace, a me piace moltissimo, soprattutto quando ci sono due ragazze che lo giocano come le nostre, come Rani e Vinci, che vincono gli US Open e che... e che sono prime in classifica nel ranking ATP. Mi piace anche per questione di tifo. Poi io, se devo scegliere tra una grande partita di singolare e una grande partita di doppio, sono dalla parte di Rino Tommasi, perché il tennis è quello. Questo io penso, ma senza fare delle classifiche di merito che non siano quelle del ranking ATP, che quella mi interessa, e lì siamo primi per la prima volta grazie a Rani e Vinci. Luca, provincia di Varese. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una considerazione a seguito di quello che ha detto prima l'ascoltatore sulle qualità di Allegri. Premetto che sono interista. Io non ho mai reputato Allegri, lo dico da interista, un buon allenatore, nel senso che anch'io credo che con la squadra che aveva l'anno scorso il Milan, con il livello molto basso di campionato, nel senso che l'Inter, che ha cambiato tre allenatori, che aveva una squadra abbastanza allo sbando, ha rischiato di arrivare terza fino a due giornate dalla fine, con quella squadra, con l'organico che aveva il Milan, con Ibrahimovic, Thiago Silva e tutti quanti, doveva sicuramente vincere, anche perché la Juve ha avuto il merito di non perdere mai, ma non aveva grossi campioni, nel senso che i campioni secondo me erano Buffon e Del Piero, ma Del Piero a mezzo servizio, quindi secondo me non è stato molto abile. Seconda cosa, il fatto che ha gestito proprio male lo spogliatoio, perché è vero che ha liquidato tutti i senatori durante l'estate o magari in un anno e mezzo, ma la stessa cosa l'ha fatta anche l'Inter, con la differenza che Stramaccioni. Beh, lì sono anche due procedure diverse, anche perché ad Allegri hanno venduto davvero tutti. Grazie a Franco Piantanini in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati.